E ancora stiamo leggendo i libri dei Maccabei, che io spero sia per tanti di noi una scoperta. Sono il primo e il secondo libro dei Maccabei pochissimo letti e anche nella liturgia sono pochissimo citati. Per fortuna il nostro rito ambrosiano ha voluto darcene una sequenza. Io è già il terzo giorno che commento dei brani che, se non si ha in mano il testo, è difficile anche seguirli. Perciò io vi dico, se vorrete, potete riprendere la vostra Bibbia di casa al secondo libro dei Maccabei, capitolo 6, e vedrete quanto sono attuali gli insegnamenti di questi libri ancora oggi. Che cosa succede? Succede che il popolo ebreo è invaso da re esterni, con mentalità evidentemente pagane, che stanno imponendo sia politicamente sia religiosamente una cultura che non è quella del popolo ebreo. Abbiamo sentito del vecchio Eleazzaro, abbiamo sentito del tesoro del tempio che vogliono depredare. Oggi sentiamo, ma io vi inviterei a leggere, io non ho quasi scrupolo a leggere queste parole per dire come veniva inzozzato dal dilagare del male il tempio. Ma devo leggere due parole. Il tempio era pieno delle gozzoviglie dei pagani che si divertivano con le prostitute e dentro i sacri portici, il tempio di Gerusalemme non era solo una chiesa, era come quei santuari che hanno una chiesa al centro e dei porticati in giro. Qui in Lombardia è chiaro l'esempio di Caravaggio. E dentro i sacri portici si univano a donne introducendovi pratiche sconvenienti. L'altare stesso era colmo di cose vietate dalle leggi. Non era più possibile celebrare le feste dei padri. E anche chi, e va avanti, no, e narra questo disfacimento. Amici, come non vedere ancora oggi queste parole per noi? Sia per le chiese che per la nostra società. La Chiesa, è inutile negarcelo, e Papa Francesco continua a picchiare su questo tasto, per i preti e per i vescovi, la mentalità mondana, la mentalità del mondo, non la mentalità evangelica. Ma non è solo questione dell'indegnità dei preti pedofili. Ieri accennavo anche a certe transazioni economiche che fanno persone del clero, che fanno una certa mentalità che c'è anche nei nostri consigli pastorali, per cui si fa fatica, se una chiesa è ricca, a dare dei soldi a delle chiese povere. Questi sono soldi nostri. Guai a quel parroco che osasse portare questo nei consigli degli affari economici. Gli fanno la guerra i suoi parrocchiani. E i battezzati, a parte che non vanno più in chiesa, da noi cosa verrà? Nella nostra frazione verrà il 7% in chiesa? Eppure battezzano i figli, eppure li portano alla comunione, eppure i funerali si fanno ancora in chiesa. Ma dov'è la fede, amici? Quante defezioni da parte di persone di chiesa e da parte di battezzati. E come allora? E allora cosa bisogna fare? Lì, se continuiamo la lettura del secondo libro dei Maccabei, vediamo che questi hanno preso in mano le armi e hanno fatto una ribellione armata. Io non credo che sia da fare così oggi, ma le armi dobbiamo prenderle in mano anche noi. Le armi della preghiera e della penitenza che la Madonna Medjugorje continua a ripetere, e noi siamo sordi, siamo sordi, siamo sordi. la pace, la Madonna della pace chiamata, no? Mir. La Madonna della pace dice: preghiera e penitenza servono a cambiare il corso della storia. Ascoltiamo cosa dice la Gospa, la Madonna. Gospa vuol dire Madonna in lingua croata. E le nostre famiglie, amici, allora prendiamo in mano la preghiera. Secondo me la preghiera deve avere tre caratteristiche, ma lo va dicendo la Madonna in continuazione, lo va dicendo la Chiesa. La messa, la messa, la messa. Non solo quella domenicale, ma anche quella feriale. Non abbiamo tempo? Provate a fare una statistica, quante ore si passano davanti alla televisione. Facciamole queste statistiche. E non abbiamo tempo di andare davanti a Gesù e far la comunione anche tutti i giorni. Il rosario, Padre Pio diceva, è l'arma. E guarda che se non spari tu con quest'arma, spara il demonio contro le nostre case, le nostre famiglie. La messa, il rosario e la confessione frequente, almeno una volta al mese, almeno. Ma la gente non si confessa più. La mia amica mi ha detto che, il tal prete mi ha detto che, e io ti dico invece che, e la Madonna ti dice invece che. Le nostre famiglie, amici, sono già sfasciate. Ma cosa aspettiamo? Non è il caso ancora di guardare il libro dei Maccabei? Preghiera e penitenza. Scusate se la faccio un momentino più lunga, ma il messaggio di oggi è fondamentale. La penitenza. Io direi cominciamo con la penitenza quotidiana. Quella sofferenza, si diventa vecchi, ti fa mal di qui, ti fa mal di là, offri al Signore. Non sei più capace di fare certe cose in casa tua e ti viene il magone, offri al Signore. La sofferenza fisica, la sofferenza morale che ci viene da tanti nostri figli, la sofferenza nel tacere, tacere, tacere, amici. La sofferenza nell'offrire a Dio queste nostre cose. Guardate che attualità hanno questi libri dei Maccabei che neanche quasi il popolo cristiano conosce. Ma nello sfacelo i Maccabei si sono ribellati. Nello sfacelo dobbiamo reagire anche noi, preghiera e penitenza.